Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Don Luigi Ciotti, 70 anni di Pieve di Cadore, la famiglia si trasferisce a Torino a seguito del padre muratore quando lui aveva 5 anni. Ero povero in mezzo ai ricchi, dirà. Ho sperimentato il giudizio sprezzante dei compagni di scuola. I giudizi fanno male. Ordinato sacerdote nel 72 dal cardinale Michele Pellegrino, fondatore del gruppo Abele, della Lega Italiana per la Lotta all'AIDS e dell'Associazione Antimafia Libera, prete di trincea, spesso considerato tonaca rossa, sempre e comunque dalla parte degli ultimi. 3 lauree honoris causa, ama De André, vive sotto scorta. Don Ciotti, quando il cardinale Pellegrino di Torino l'ha ordinata sacerdote, gli ha detto: la tua parrocchia sarà la strada. È stato profetico? Mi ha mandato, no, a insegnare a chi c'è sulla strada, ma a riconoscere il volto di Dio in chi fa più fatica, a trasformare e vivere un impegno che salda un po' di terra con il cielo. Ma che cos'ha di più la strada? Beh, la strada raccoglie un po' i volti, le fatiche, le contraddizioni, le gioie e le speranze delle persone. E da quando è cominciato ad adesso è cambiata la strada? È molto cambiata la strada. Si incontrano persone diverse? Sì, certamente il popolo che ho conosciuto sulla strada tanti anni fa oggi è molto diverso. Anche lo stesso mondo della prostituzione allora era proveniente dentro il nostro paese, oggi arrivano da paesi lontani, certo, ad esempio. Ma un prete può fare a meno della strada? Beh, non a caso Papa Francesco le prime cose che ha indicato: andate nelle periferie, infatti, che vuol dire sulle strade, incontrare la gente. Ma dalla strada si deve guardare verso in alto, verso anche l'alto, nei palazzi dove c'è tanta gente chiusa dentro le proprie solitudini. Ecco, ma Papa Francesco è un prete di strada, è quello che avete in comune? Ma i preti sono preti e tutti devono essere preti di strada, tutti dobbiamo darci da fare per andare incontro in tutte le forme alla storia, alla vita, alle fatiche, alle speranze delle persone. Ma la foto nella quale il Papa la prende per mano e si accompagna con lei affettuosamente ha commosso tanta gente. È la fine del lungo esilio di una tonaca rossa? Beh, io sono mai una tonaca rossa, sono stato dalla parte della dignità, dei diritti, della libertà delle persone. Quindi tonaca rossa non le piace, no, come definizione? Il mio riferimento al Vangelo e poi come cittadino la Costituzione italiana. Ma la difficoltà anche forte che ha avuto nel rapporto con la Chiesa ufficiale l'hanno mai messa in crisi, Don Ciotti? Beh, certamente i dubbi sono più sani delle certezze, tanti interrogativi me li sono posti, ma ho sempre amato il Padre Eterno innanzitutto e poi anche i poveri, gli ultimi, quelli ti danno la forza, le coordinate per andare avanti. È questo che ha aiutato a resistere nei momenti difficili. Quanto è solo Papa Francesco in questa chiesa di oggi? Beh, sono tanti che gli vogliono bene, tanti che sperano, tanti che vogliono essere vicino e si sente, si vede in contesti diversi. Ma quanti dicono bravo Francesco e poi invece sono tanti, remano contro? E lui non si stanca di denunciare quelli che se ne stanno comodi nelle poltrone, perché non basta essere credenti, bisogna essere credibili. Ecco, lei dice: Francesco colpisce tutti, credenti e non credenti, perché, come diceva prima, è capace di saldare il cielo con la terra. È una bella frase, ma cosa vuol dire? Una chiesa che ci invita a guardare verso il cielo, la dimensione più spirituale, più profonda, ma che ci invita anche a non distrarci dalle responsabilità che abbiamo verso la terra. Ecco, lei quando e dove ha incontrato il Cristo che le ha convertito il cuore? Beh, sulla panchina di Torino, beh, da ragazzo certo frequentavo la parrocchia, l'Azione Cattolica, ma sarà un uomo con 3 cappotti addosso, disperato, i barboni di una volta li chiamavano, che mi cambierà un po' la vita. Ma da allora non ha avuto i dubbi mai? Beh, tanti dubbi, tanti interrogativi, tante fatiche, ma anche tante speranze. Ma sono un testardo, una sana testardaggine, perché quando le cose hanno degli obiettivi giusti noi non dobbiamo assolutamente mollare. Ma si è mai arrabbiato con lui, col Padre Eterno, per il dolore e il male che c'è nel mondo? No? Sì. Tante volte mi sono posto domande, interrogativi, ho chiesto: ma dove sei, Dio? Oggi lei non è solo un prete, ma anche un leader, un capo carismatico, l'abbiamo detto, di un'organizzazione libera che è il simbolo, in qualche modo, del riscatto dalla mafia. È soddisfatto dei risultati raggiunti? Beh, certamente, 1600 associazioni di mondi, contesti diversi messi insieme, liberi in tutta Europa, in America Latina, sono i cittadini, insomma, sono i gruppi, le associazioni, i movimenti, ma non sono preoccupato, perché mettere insieme tanti mondi non è semplice e non è facile. E quanta gente più o meno lavora con o per Libera? Beh, appartengono a Libera milioni di persone, perché ogni associazione è fatta di migliaia e migliaia di persone. Va dall'Azione Cattolica Italiana, alla GESCI, alla Lega Ambiente, all'ARCI, Movimento degli Anziani, va dalla Chiesa Valdese, anche la Conferenza Episcopale Italiana. Ma c'è un fatturato complessivo Libera? Sono i soldi che vengono realizzati, il 5 per 1000 soprattutto. Che Camilleri. E quant'è più o meno? Beh, sono alcuni milioni, perché c'è un grande lavoro che coinvolge migliaia e migliaia di persone, ma sono soldi puliti, trasparenti, per fare dei progetti. Libera certamente non è perfetta, ma è pulita, ecco, è trasparente. Oggi però, per lei, appunto, dopo gli Osanna arrivano anche gli attacchi, arrivano da dentro casa, dagli amici, compagni di viaggio, fa male? Ma è da 50 anni, da quando io sono impegnato, che arrivano gli attacchi, i giochi, le strumentalizzazioni. Ma questi giudizi arrivano da dentro casa, fanno ma, più male? Ma sapete, su 1600 associazioni, se 5 persone prendono delle posizioni, bisogna chiedersi anche perché. Cioè, Franco Latorre, per essere concreto, figlio di Pio Latorre, ucciso dalla mafia, è preciso e circostanziato nell'accusa Libera. Di che cosa vi accusa esattamente? Le cose che lui viene a dire non corrispondono alla verità, ma io nutro per Franco Latorre un senso di grande rispetto e di grande dignità, perché per chi ha avuto delle ferite così profonde meritano solo grande rispetto. Ma è vero le che sue lei... opinioni, le sue opinioni non sono condivise dall'associazione, che è un'associazione che con tre assemblee... Ma perché cosa dice lui? Che non siamo stati assenti sulla storia della Sagunto a Palermo, che Roma è mafia capitale, che ci sono all'interno dei dirigenti non in grado di operare. Peccato che faceva parte anche lui di questa squadra. Ma è vero, ma è anche vero che noi su questi temi eravamo presenti, l'abbiamo denunciati in modo serio e attento. Ripeto, però io ho un rispetto per le lui. Fatiche delle persone. Ma è vero che l'ha espulso però con un SMS? No, lui... Io gli ho risposto che ero disponibile a incontrarlo, ho risposto al suo SMS, compatibilmente con i miei impegni, che non sono pochi. Certo. Quando gli abbiamo fissato l'incontro, lui aveva già diramato le Senta, sue... oggi però, Don Ciotti, è sempre più chiaro che la parola antimafia non è più una patente sicura di legalità. Perché? È da anni che io dico che ci hanno rubato delle parole. Una di queste parole è la legalità, che per molti è diventata maleabile e sostenibile. Ma cos'è capitato? È l'antimafia. L'antimafia, bisogna non dimenticarci, da anni che lo diciamo, che è un problema di coscienza e di responsabilità, non è una carta di identità dietro la quale si nascondono le persone. Ma è stata infiltrata anche l'antimafia in qualche modo? Sì, difatti noi lavoriamo sempre con le prefetture, le questure, i carabinieri per verificare nomi, cognomi, ogni 6 mesi c'è una verifica, perché la mafia, lo sapevamo fin dall'inizio, cerca di tutto per cercare di inquinare i percorsi, bisogna stare molto attenti. Ma quali sono adesso le insidie più pericolose che si annidano nel fronte antimafia? Ma c'è una fragilità nel sistema che certamente non favorisce, insomma. Lotta alla mafia vuol dire scuola, vuol dire cultura, vuol dire educazione, vuol dire lavoro, e noi siamo gli ultimi posti rispetto, ad esempio, al mondo giovanile, proprio nel mondo del lavoro. Allora bisogna darci una mossa tutti in questo senso. Senta, Don Ciotti, i mafiosi hanno sempre ostentato una forte religiosità. Questo ha reso la Chiesa meno credibile nella lotta alla mafia. Eh? Non posso dimenticare nel 1900 quando Don Luigi Sturzo disse: la mafia è più di Sicilia, ma forse la testa a Roma. E poi una drammatica profezia quando disse: risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord fino per andare oltre le Alpi. La domanda, allora io chiedo, anche con le responsabilità della Chiesa, no? Ma non solo della Chiesa, perché ha avuto dei momenti alti e dei momenti bassi, ha avuto anche il sacrificio di molti sacerdoti che hanno speso la vita a tutto questo. La domanda che io faccio e continuo a fare: come mai da 400 anni che parliamo parliamo di Camorra, 150 anni che parliamo di Cosa Nostra, 120 anni che parliamo di 'Ndrangheta. Allora, a fianco delle cose belle, importanti e positive che vengono fatte, a cui esprimiamo gratitudine e rispetto, c'è ancora tanto da fare. Ecco, lei vive appunto scortato perché è stato minacciato da Totorina, che ha detto che lei deve fare la fine di Don Puglisi ucciso. Ha paura, eh? Beh, mi pongo delle domande, evidentemente, perché Totorino non ha mai detto delle parole al vento, è stato intercettato senza sapere di essere intercettato. Quindi un po' di paura ce l'ha. Per ben due volte, la seconda volta ha dato quasi ordine a qualcuno di farlo. Quindi un po' di paura ce l'ha. Beh, un po' di disorientamento, però devo dire, sento la responsabilità, io sono una piccola cosa. E Totorino può anche eliminare una persona, ma non elimina un movimento, certo, di persone che oggi più che mai si danno da fare. Ecco, parlando del movimento, riflettendoci, un movimento così grande, secondo lei ci sono stati degli errori che non rifarebbe nell'organizzazione? Ma certamente, perché per esempio non è semplice, non è facile. Noi abbiamo dovuto cacciare delle realtà perché a parole c'erano, ma nei fatti non c'erano. Quindi una selezione più attenta, più rigorosa. Però dobbiamo stare molto attenti, perché a parole ci sono tutti, ma in questo nostro paese sono tanti cittadini a parole, ma però poi i fatti sono un po' intermittenza. Noi abbiamo bisogno di cittadini responsabili. Ecco, il PM napoletano Catello Maresca ha bollato Libera come un gruppo di estremisti dell'antimafia, mafiosi, insomma una cosa così. Ha detto, voi avete detto lo querelliamo, l'avete fatto? L'abbiamo fatto certamente, dopo un mese e mezzo di attesa, perché aspettavamo un segnale diretto per dire guardate, ho detto delle cose che non corrispondono, perché non può essere accettato quando esce per tre puntate Panorama che insulta noi. E dove viene anche riferito, cito testualmente, associazioni nate per combattere la mafia hanno acquisito l'attrezzatura mentale dell'organizzazione criminale, tendono a farsi mafiose loro stesse. Poi veniamo definito un partito, che gestiamo i beni sequestrati in regime di monopolio, ecco, in maniera anticoncorrenziale, e che siamo una realtà pericolosa e incompatibile. Vabbè. E quindi noi non è possibile accettare questo per la chiarezza, la trasparenza di migliaia e di migliaia di persone. Ecco, Don Ciotti, la legge che prevede appunto il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie è figlia del milione di firme raccolta invece proprio da Libera. Sono passati 20 anni da quel giorno. Qual è la prossima tappa? Perché questa legge prima deve passare, certo, essere poi applicata. Anche noi abbiamo portato i nostri contributi sulle criticità per il cambiamento. Cioè, qual è la novità principale del decreto? Confisca anche ai corrotti. E allora qui i problemi si fanno certo difficili. Certo. E soprattutto norme più dure sulla nomina degli amministratori, più trasparenti, rotazione. E poi soprattutto che finisca a essere presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, non può essere del Ministero degli Interni, tutto finisce lì. Infatti queste norme renderebbero davvero la gestione dei beni confiscati una cosa abbiamo diversa. Bisogno che sia molto più veloce, molto più concreta. Quando noi abbiamo raccolto con milioni di firme avevamo un obiettivo, l'uso sociale di questi beni, sì. E oggi in Italia oltre 500 associazioni ne stanno facendo un uso, ecco, però, ed perché... è forte che la villa di un boss diventi l'asilo nido, certo, ad esempio. Certo, però Don Ciotti, per essere concreti, le aziende mafiose una volta requisite spesso fanno fatica a restare sul mercato, spesso falliscono. È questo. Qui non si è messo sufficiente testa in passato, ora ci sono delle linee, degli interventi, delle modifiche proposte anche nel nuovo sistema che permetterebbero di ripulire queste situazioni. E in qualche modo il riutilizzo sociale dei beni confiscati potrebbe quasi costituire un pezzo del nuovo welfare. È la proposta che abbiamo fatto per dare una mano proprio alle situazioni di maggiore fragilità e di povertà. Devo dire che molti beni sono stati destinati poi agli enti locali. I beni restano sempre dello Stato, le associazioni ne fanno un uso di servizio. Voi avete promosso la campagna Miseria Ladra. Perché? perché lotta alla mafia vuol dire politiche sociali, vuol dire servizi, vuol dire reddito di dignità. Perché la mancanza di lavoro che produce mafia e corruzione. Non solo, ma certamente è uno degli elementi importanti. Cultura, lavoro, scuola. In Italia, dove un giovane su tre si perde nei primi 5 anni delle superiori, mi chiedo dove finisce. Siamo agli ultimi posti, nonostante, ripeto, dei miglioramenti avvenuti negli ultimi anni, siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica. Certo, sì. Abbiamo 6 milioni di analfabeti nel nostro paese, nel senso con analfabetismo di ritorno. Abbiamo non un miglioramento sull'occupazione nel mondo giovanile, siamo gli ultimi posti. Allora ecco, uno scatto deve essere fatto, in questo senso. Ecco Don Ciotti, il 21 marzo è la giornata della memoria, in ricordo di tutte le vittime delle mafie, ma non è ancora una giornata nazionale riconosciuta per legge. Perché? Oggi al Senato viene discusso questa proposta che giunge dai familiari, ma giunge da noi, perché ce la siamo inventata quella giornata. C'era il rischio che si ricordino solo i grandi nomi, ed è giusto, sì. Però non possiamo dimenticare, certo, le ferite e il dolore di tante altre persone. Lei dice spesso, non basta commuoversi, bisogna muoversi. Come? Perché è facile fare tante parole. Bisogna sconfiggere una malattia mortale nel nostro paese, che è la delega, l'indifferenza, la rassegnazione. Non basta commuoverci, è un sentimento umano veramente accettabile, però bisogna darsi poi una mossa, perché la prima riforma da fare nel nostro paese è un'autoriforma, è la riforma delle nostre coscienze. Ecco, ma l'Italia, secondo lei, l'Italia di oggi in concreto, è o no in guerra contro le mafie? Insufficiente. Tant'è vero che anche nell'ultimo rapporto del Presidente della Corte dei Conti, l'apertura dell'anno giudiziario sottolinea veramente che questa corruzione e crisi economica come vanno a braccetto, ma anche il rapporto della DIA che ci mette in evidenza come negli ultimi tempi, e la crisi economica lo favorisce, le mafie sono forti, hanno tanto denaro, lo investono, lo riciclano. E qual è la più forte? La 'Ndrangheta? Io credo la 'Ndrangheta sia la più forte, la più potente, intelligente. Io sono immigrato a Torino, e Torino anni fa la 'Ndrangheta ha ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia. Abbiamo raccontato la storia l'altro giorno. Ecco, la legalità, lei la vede al centro dell'agenda politica di chi ci governa, oppure è ancora prevalentemente una parola? È insufficiente. Ma che voto dà Renzi allora su questo fronte? Credo dei passi sono stati fatti, perché parte la legge sulla corruzione è passata, c'è in discussione quella sui beni confiscati, il ministro Orlando porta avanti quella sulla giustizia. Voglio sottolineare delle positività, ma le distanze sono ancora tante. Senta Don Ciotti, il film sui preti pedofili, coperto dalla gerarchia ecclesiastica, ha vinto l'Oscar. Che effetto le ha fatto? È un pugno nello stomaco, credo che aiuti a riflettere, a porci delle domande e chiedere anche noi un pochettino perdono dei nostri ritardi, delle nostre sottovalutazioni. Ma perché c'è stata un'omertà così forte e prolungata dei vertici della Chiesa rispetto a questo fenomeno della pedofilia? Guarda, io non sono in grado di rispondere. Sono non è ai vertici della Chiesa. Non sono ai vertici della Chiesa. Credo che bisogna avere l'umiltà e il coraggio. Io sono il primo che devo farmi un esame di coscienza. Certo. Sono un peccatore, mi arrampico sui vetri. Dobbiamo essere capaci di fermarci a riflettere. Ma lei, e avere più coraggio. Lei nelle sue associazioni ha recuperato anche autori di delitti efferati. Sarebbe pronto a cogliere anche il pentimento di un prete pedofilo? L'abbiamo già fatto. Ah, già fatto. Ne avete? Nella chiarezza e soprattutto nell'atto di assunzione di responsabilità, perché bisogna offrire a tutti la possibilità di voltare pagina. Senta, ma il celibato per i preti è qualcosa da superare oppure no? Io credo che in prospettiva sì. Possa essere una possibilità che viene data di poter scegliere nel continuare a spendersi nel servizio. Cioè celibato e castità possono non coincidere. Io mi fermo su quella soglia di pensiero, dico che possono aprirsi delle strade diverse. In fondo i primi sacerdoti, diciamo così, gli apostoli erano in gran parte sposati, certo, e quindi avevano un'assunzione di responsabilità, ma si erano poi messi in gioco per dare una mano seguendo Gesù, saldando anche lì terra e cielo. Ecco, la prima domenica di Quaresima, Suor Rita Giarretta, che è un'orsolina da 20 anni in missione a Caserta, ha scritto una lettera aperta chiedendo a Papa Francesco, che ha chiamato papà, di liberare il volto della Chiesa dalla sua schiavitù maschile. Ecco, secondo lei Francesco coglierà questa sfida? Ma lo sta facendo, lo sta facendo. In che senso? Ha già fatto dei passi in questa direzione, lo ha sottolineato. E poi il suo rito è una meraviglia e quindi la sua lettera così carica di affetto è un grido che deve essere assolutamente ascoltato ancora di più all'interno della Chiesa. Ma secondo lei la Chiesa è pronta a questa rivoluzione al femminile, diciamo? Ma su certi percorsi credo di sì. Papa Francesco c'è, è lui che c'è. È lui che si batte, è lui che è testimone di tutto questo. Ecco, Suor Giaretta scrive, perché è molto precisa, scrive che la diseguaglianza tra uomini e donne all'interno della Chiesa tradisce il Vangelo di Gesù. Lei è d'accordo? Sì, sì, sì. E quindi ha tradito per un bel po' di tempo. Ma io non sono in grado di dire questo. Sono in grado di dire che Suor Rita, che si spende, è un amore incontrarla, di una persona veramente che cammina con chi fa più fatica e che ci invita tutti a riempire la vita di vita, di più, di senso, di significato, di amore, di impegno, di responsabilità. Ecco, Don Ciotti, un'ultima domanda le faccio. Lei è un modello per moltissimi, ma a parte Gesù, qual è stato il suo modello? Beh, io mi hanno aiutato veramente, veramente i poveri, gli ultimi. Mi hanno cambiato la vita e sono loro ancora che mi danno le coordinate del mio impegno. Ha delle persone che lei considera in qualche modo suoi modelli di riferimento? Nella Chiesa ho avuto Padre Michele Pellegrino, che per me è stato un grande punto. È stato che quello che l'ha fatto e mi ha fatto estremamente piacere. Prete. Sì. Io ho cominciato da ragazzo, sono stato prete poi dopo e quando mi ha ordinato mi ha detto a tua parrocchia sarà la strada. Ma mi ha fatto molto piacere incontrando la prima volta Papa Francesco, quando Papa Francesco mi ha chiesto ma chi è che ti ha ordinato sacerdote? Io credo che lui lo sapesse. Io ho detto Michele Pellegrino e lui mi ha detto guarda, quando i miei nonni si sono trovati in un momento di grande difficoltà ad aiutarli è stato un giovane prete di nome Michele Pellegrino. Accidente. Bene, grazie Don Ciotti, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, un titolo per il faccia a faccia di Don Ciotti? È ancora libera. E tu Pietrangelo? Il credo degli incredibili. Bene, e allora andiamo con la tua canzone. Blind man waving by the side of the road in a flatbed Ford kind of heavy load. Sweet things sipping on a blueberry wine on a flat black highway down in Carolina. Blackbird slipping in the sky. Oggi cosa ci racconti con questa canzone? Perché tutto ciò che c'è è una dolce cosa. Un bicchiere di mirtillo, uno sbandato che barcolla, un carico pesante in cerca di un'autostrada, una bimba che porta in dono bacche e l'unica cosa che resta in testa la dolcezza delle dolci cose. Ha chiamato il dottor Ingravallo, direttamente dal commissariato di via Merulana. Di ogni pasticciaccio ha fatto un dolce, ha voluto questa chicca, questo brano e la dedica. Voglio l'erba, voglio. Mazza, Gaddiano. Gabbiano. Gaddiano. Gaddiano. Senti, e tu? Gaddate. Allora, l'ognome... No, gaddiamo, tu gaddi. Tu gaddi, essi gaddano. Oh, mi scusate, la chiamiamo battuta. La crusca, magari ce l'accettano? Gaddiano? Gaddate. Crusca. Crusca. Dai. Gaddaloso. Oh, vabbè. Vai. Never been so inside. Questo è un bel pezzo, anche la mattina. Sembrerebbe, da tipo io la chiamo fase di Vanetto la sera. ma in realtà vellutato naturalmente in ambienti un po' lounge anni 70, ma in realtà sentitela perché... è uno che ha bei vocalismi, Jamie Wong. Allora, è Sharpness il brano, E ieri c'è stata una giornata molto importante al Senato, anche alla Camera, ma quella del Senato è stata più, ovviamente più interessante. Perché hanno parlato di Libia, per certo. La prima volta il Parlamento italiano La televisione della D'Urso. Esatto, cioè ha aperto il dossier, non è la televisione appunto, dalla D'Urso. La televisione aperto... è più forte della politica. Ma questo è grave, questo non è so. Molto grave. Dai. Perché se ne è una propaggine allora è veramente la fine. Insomma, c'è stato un dibattito, Gentiloni... si è capito una cosa, non abbiamo una linea precisa, cioè ne abbiamo abbiamo una linea oscillante. Ma com'è che diceva Mao? L'avvenire com'è, però il percorso a zigzag è luminoso, ma il percorso è a zigzag, quindi la mettiamo sulle... Gentiloni, io sentivo proprio sugli specchi, però invece chi ha la linea, secondo me alla fine in qualche maniera influenza, detta non a caso ha parlato, è Giorgio Napolitano, che ha cominciato secondo me a delineare la fase 2, un po' che lo fa La fase 2 per farli uscire dalla confusione in cui sono finiti anche sul dossier libico e non solo, cioè separare la lotta da ISIS dalla missione in Libia, questo diciamo è concettualmente quello che farà Napolitano. Nel frattempo segnalo che è stata approvata sempre dal Senato la legge quadro con modifiche, quindi però dovrà tornare alla Camera, sulle missioni militari all'estero. È una roba burocraticissima, sì. Tra l'altro, se volete avere un esempio di eccesso di legislazione, leggetela, perché ripete norme che sono già ma non è quella nella quale ci sta anche Perché quella era la legge di conversione del precedente decreto, ma stavano tentando di infilarla là. E stiamo parlando per gli ascoltatori dell'articolo 7 bis. Quello che dà i poteri al Presidente del Consiglio di gestire attraverso i corpi segreti speciali praticamente la guerra. Esatto. Allora, di tutto questo non si è chiarito una cosa. Qual è l'interesse nazionale dell'Italia in Libia? E siccome non si è chiarito, io manderò al mio amico Gentiloni una mappa dei nostri giacimenti gestiti da Eni in Libia. Così penso cominciamo. Che lo conosca. Sì, ma secondo me ha bisogno, perché non racconta le cose fino in fondo. Ha citato solo Raslanuf ieri, che è un terminal petrolifero molto importante, e da lì si capiva che insomma... Il riferimento era quello. Esatto. Salamino! Le confermarie più che le primarie, altro che cinesi in fila, altro che sedicenni e spiccioli. Se la carta rossa vince, la carta nera perde. La carta rossa vince. Eccola qua. Qui non ci sta, fare il vostro gioco. Oh, chi gioca solo non perde mai. La sinistra docet, la destra rilancia. Rilancia coi suoi vizietti, ma sabato e domenica di mobilitazione a Roma per il popolo che fu del PDL, del già Polo delle Libertà o Casa che dir si voglia, o insomma popolo del berlusconismo che fu, che è e chissà se sarà ancora, visto che per la prima volta in vita sua Silvio Berlusconi non si sta facendo capire, oppure si è capito benissimo, vuole perdere le elezioni amministrative per salvaguardare il vero conflitto di interessi. E qual è? Far vincere Matteo Renzi. Insomma, confermarie più che primarie a Roma. L'elettore avrà una scheda dove c'è già scritto il nome del candidato unico da confermare, ovvero Guido Bertolaso. E sarà tutto un ossia un Bertolaso Berlusconi, nella speranza di un corale di greggi festanti pronte ad accorrere ai seggi, ovvero nella migliore delle ipotesi Brigitte Bardot. Beggio, delle ipotesi. Quella è BB, certo. Un trenino verso il precipizio, una stagione politica tutta da chiudere. E siccome plebiscito deve essere, fortuna che non c'è la gommina da saldare con apposita leccatina, altrimenti e il precedente storico è illustre, potrebbe accadere come con il plebiscito di annessione del Regno del Sud all'Italia dei Piemontesi. Ve lo ricordate? Ciccio Tumeo, ricordate, nel Gattopardo, Ciccio Tumeo, uno che va al seggio, si ritrova recapitata la scheda da leccare e da chiudere e risponde: ci sputasse vossia, confermarie più che primarie, ci sputasse vossia, oppure, per dirla con Francesco Storace, tra confermarie, primarie, cazzarie. E perciò il popolo delle libertà si prende la libertà di mandare a dire al cavalier quanto segue. Deciano mai mandato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tutti gli che te ci ho mandato io. E va, avanti tu che adesso c'ho... 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Malati, affamati e impauriti sono i bambini del campo profughi di Idomeni, al confine tra Grecia e Macedonia. Sono in tanti, buttati in un groviglio di fango, freddo e filospinato. Il 60% dei profughi arrivati in Europa ora sono bambini e donne, secondo il monitoraggio UNICEF. Le condizioni in cui si trovano compromettono la salute dei bambini. Piove, non hanno un riparo, si ammalano, hanno problemi respiratori. Ecco, le abbiamo viste in questi ultimi giorni le terribili immagini del campo profughi di Idomeni. Molti di quei bambini che abbiamo visto vengono dalla Siria ed è appena uscito il rapporto di Save the Children, Infanzia sotto assedio, che denuncia la drammatica condizione di 250.000 bambini proprio nelle città siriane da 5 anni sotto assedio. Michele Prosperi, portavoce di Save the Children, l'assedio ai civili è diventato anche una tattica di guerra. Ma intanto dobbiamo pensare che purtroppo sin dall'inizio della guerra, nel 2011, quando ad Hara si decise di privare la popolazione di elettricità, acqua, cibo per 11 giorni, e il fatto che esistano così tante aree in questo momento che sono sotto assedio dimostra quanto in realtà questa sia proprio una strategia sul campo. Noi naturalmente, come organizzazione umanitaria, come Save the Children, constatiamo il risvolto umanitario che purtroppo costringe centinaia di migliaia di persone in condizioni di estrema necessità e nell'impossibilità di ricevere aiuti. Ecco, voi raccontate di magazzini colmi di aiuti, appunto, che nessuno riesce a raggiungere. Ma com'è possibile? Secondo gli accordi si sarebbero dovuti facilitare gli accessi degli aiuti nelle diverse aree, però di fatto gli assedi non vengono sospesi, molti dei convogli sono ancora fermi e sono da giorni fermi ai checkpoint. Molto, in alcuni casi i convogli con gli aiuti sono stati depredati oppure sono stati fatti attendere per periodi lunghissimi ai checkpoint o al di fuori delle aree assediate. Molti bambini già dall'età di 8 anni vengono arruolati per il fronte. In che modo? Ma naturalmente dobbiamo immaginare che le condizioni sul terreno sono gravissime. La vita purtroppo alla quale sono costretti i bambini, spesso isolati perché orfani o separati dalle loro famiglie, si trovano ad essere improvvisamente adulti, devono in qualche maniera trovare qualcosa da mangiare rovistando in giro per le strade, trovare qualcosa per accendere un fuoco per potersi scaldare, ricordiamo che fa molto freddo. E purtroppo in queste condizioni anche i casi di abusi sessuali, sfruttamento di ogni tipo dei minori sono all'ordine del giorno. Naturalmente questo comprende anche l'arruolamento. È un'opzione assolutamente utile perché significa avere un pasto o un luogo dove dormire. Attualmente l'unica salvezza è la fuga? Sappiamo tutti che cosa significa essere padri e madri. Credo che ciascuno di noi, se si trovasse in questo momento, in quella condizione, capirebbe chiaramente che l'alternativa è una sola. Una testimonianza di un padre con le sue due figlie che abbiamo incontrato alla frontiera con il Libano, appena attraversata, fuggito dall'area del Golfo orientale, ci raccontava di intere famiglie che vivono chiuse nelle cantine sotto i bombardamenti, il fuoco dei cecchini. A un certo punto la decisione è quella di abbracciare i propri figli e cominciare a correre, sperando che i cecchini non ti colpiscano. Molto spesso alcuni di loro hanno dovuto abbandonare amici o parenti che sono caduti al loro fianco mentre correvano. Ecco, ma l'unica chance era quella di guardare avanti, correre più in fretta possibile e cercare di riuscire ad imboccare la strada del deserto per poter raggiungere il confine con il Libano in questo caso. Ecco, il portavoce di Serge Cidren ha raccontato a Alessandra Fiori come la fuga spesso è l'unica alternativa possibile ed è una cosa da ricordare ogni volta che affrontiamo i problemi dell'immigrazione, ma credo, Mario, che stia parlando la Merkel proprio su questo tema. Sì, alla radio tedesca, cogliamo l'occasione al volo, come suol dirsi. E la Merkel in questo momento noi dobbiamo assolutamente appoggiarne la linea politica, perché dice che la chiusura della rotta balcanica non risolve i problemi appunto dell'emergenza immigrati. E questo per noi è molto importante, perché ieri c'è stato un vertice al Quirinale. Si teme l'arrivo sulle coste pugliesi, con la chiusura di queste rotte appunto, di 140.000 ulteriori immigrati. Quindi in questo momento la posizione della Germania è quanto mai funzionale agli interessi dell'Italia. C'è una sintonia fra la Merkel e Renzi su questo tema. Sì, infatti noi abbiamo fatto anche un documento comune all'ultimo vertice europeo con i tedeschi. Sì. Quello che è importante da capire per chi ci ascolta o per chi comunque in ogni caso fa molta visione semplicistica del problema, è che è per questo che Schengen è necessario. Se noi chiudiamo tutte le frontiere di tutta Europa, ci ritroviamo poi i problemi in Italia, perché noi siamo la frontiera sud, certo, insieme alla Grecia, no, è così. Quindi è questo il punto. Pietrangelo? Potrei dare un'altra notizia. Certo. Hanno acceso il MUOS a Niscemi in Sicilia. Il MUOS è il radar dell'esercito americano. Lo hanno acceso, dicono che sia un test, dicono che sia soltanto un test. Il fatto che l'abbiano acceso vuol dire che queste partenze una per una dei droni è imminente, diciamo. Ufficialmente dicono sia un test, sicuramente un test sulla nostra sovranità. Mi pare che l'abbiamo persa. Insomma, la sovranità è una cosa di cui non disponiamo se non molto parzialmente. Senti, andiamo col canzoniere. Ti aspetto e ogni giorno mi spengo poco per volta e ho dimenticato il tuo volto. Mi chiedono se la mia disperazione sia pari alla tua assenza. No, è qualcosa di più. È un gesto di morte fissa che non ti so regalare. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. L'SMS è un aiutino, ma Pietrangelo, non so. Sì, dai. Opera di grande poesia, più aiuto di questo che devo dare. La gente che si ama la conosce questa poesia. Va bene, sono in pochi che si amano. Pubblicità. Mix 24. 9:49, siamo sempre in diretta a Mix 24. Abbiamo il vincitore del canzoniere, Roberta da Bassano del Grappa. Roberta, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, di che? È la poesia Ti aspetto ogni giorno di Alda Merini. Ah, giusto. Bravissima. Feltrinelli per lei. Che fa di bello, signora? Io lavoro in ufficio, sono un'amministrativa e vi ascolto, mi fate compagnia tutti i giorni, grazie a lei. Grazie signora, buon lavoro. E adesso, come sempre, col professor Roberto Bernabé. Ah, Mario, c'è una bolla ancora? Scusa. Sì, al volo. Sì. Mi sembra che è il Trick Switch, ma non mi ricordo mica più il titolo di questo brano. Però al volo, perché segnalo, per chi voglia capire come va il mercato dell'energia, e dico come va il mercato in generale, perché l'energia serve a produrre beni e cose, c'è il numero uno di Chevron che dice che il mondo avrà bisogno sempre di più petrolio in realtà, e quindi vede una risalita del prezzo e un futuro migliore, diciamo, per le compagnie petrolifere, che hanno cambiato molti. Presidente di Chevron. Questi non sono, sono realisti questi. Tu hai mai visto il film Il Petroliere? Questi sono, è gente che sa fare i conti. Va bene, e allora il petrolio risalirà. Adesso con il professor Bernabé, come dicevo prima, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Giama, febbraio 2016. Soluzioni per sentire meglio. La sordità è uno dei maggiori problemi della vecchiaia e va di conserva con la vecchiaia stessa, un po' come la presbiopia. Intorno ai 50 anni bisogna mettersi gli occhiali per vederci da vicino. Intorno ai 70 è sicuramente una quasi certezza, nel senso che più o meno il 60% degli ultrasettantenni ci sentono di meno, hanno l'ipoacusia. Si calcola che in Italia siano svariati milioni queste persone che hanno l'ipoacusia e, malgrado questo, solo uno su cinque ad andar bene utilizza una protesi acustica. Lo sapete, nonno non si mette l'apparecchio nemmeno se gli dai un finanziamento o lo minacci. È un classico, un po' perché c'è quello che si chiama lo stigma sociale. Farsi vedere con l'apparecchio è un ammettere che c'è qualche cosa che non funziona. Gli occhiali sono passati, la protesi non è passata. Ma questo articolo ricorda anche che c'è un altro problemino, che queste protesi acustiche costano un mucchio di soldi. E costano un mucchio di soldi nonostante le componenti elettroniche delle sei principali ditte che detengono l'intero mercato non siano superiori ai $200. Sapete invece che ne servono svariate migliaia di euro per comprarsi la protesi acustica. E allora l'articolo suggerisce perché l'ipoacusia è pericolosa, perché può causare demenza, può aumentare il rischio di cadute, certamente deprime. Allora gli articolisti suggeriscono che si facciano dei contributi ad hoc per la gente, come fanno in Danimarca, Svizzera e Inghilterra, in modo tale da far rientrare gli ausili acustici nell'assistenza di base, diminuendo poi in questo modo i costi futuri delle cadute o della demenza o della depressione di chi non ci sente e poi fatalmente cade in questi problemi. Ma soprattutto c'è evidentemente un aumentato guadagno che è veramente quasi imbarazzante da parte dei venditori, che potrebbe essere tamponato con degli adeguati finanziamenti da parte dello Stato. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi stamattina? Oggi una canzone per ricordare chi c'è stato prima, perché se ti amerà come tu vuoi, ricordati che lei l'ha imparato da me. Gino Paoli, Lei sta con te. Lei sta con te, lei vuole te, e ti dirà che tu sei stato.